Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Nella domenica appena trascorsa, 18 settembre, è stata effettuata in tutte le parrocchie italiane la raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia. Allora, precisiamo, grazie a un intervento, a una nota delle Caritas diocesane del Nord-Est, che fine faranno questi soldi, per che percorso faranno. L'esperienza è ormai ultradecennale per quanto riguarda la Caritas, e tutto quello che è stato raccolto domenica sarà utilizzato seguendo le indicazioni delle Caritas e delle chiese locali colpite in questo caso dal sisma del 24 agosto. Il criterio di suddivisione utilizzato in questi anni è quello della destinazione con delle percentuali che vadano a coprire per il 50% interventi di emergenza, ricostruzione e consolidamento come i centri di comunità, strutture di aggregazione, oratori, scuole, per il 25% sostegni economici di varia natura per famiglie e imprese come ad esempio il microcredito, e per il rimanente 25% supporto alle situazioni più fragili, disabili, stranieri e anziani, che in questi frangenti come quello del terremoto risultano ulteriormente affaticati. Con questa modalità, ad esempio, in Abruzzo la delegazione Caritas Nord-Est ha contribuito a costruire una scuola, 6 appartamenti per anziani, 4 centri di comunità, il restauro della canonica di Roio Poggio, un progetto di microcredito. In occasione del terremoto in Emilia-Romagna e altre zone, in 14 mesi si sono potuti aprire 4 centri di comunità, ricostruire un teatro parrocchiale, quello di Ficarolo, in provincia e diocesi di Rovigo, ristrutturare un asilo a San Felice sul Panaro. Inoltre si è coperto per 9 mesi il costo del noleggio di alcuni moduli abitativi per famiglie in attesa di alloggio nel paese di Camposanto. Per favorire questa prossimità, dunque, anche fatta di presenza fisica e umana, ricordiamo tutti i volontari della Caritas e non solo, già sono stati avviati contatti con le Caritas locali Umbria, Lazio e Marche, le zone colpite dal sisma, per avere indicazioni operative che permettano di strutturare progetti mirati ed efficaci per le singole comunità, in grado di costruire anche legami significativi duraturi nel tempo. Questo appunto per ulteriore chiarezza e trasparenza su come i soldi raccolti in questa domenica, appunto, come detto, tramite le parrocchie, ma più in generale i soldi raccolti dalla Caritas in queste settimane saranno utilizzati. Ricordiamo, e faremo il punto nelle prossime settimane per quanto riguarda specificamente la Caritas di Padova, l'iniziativa Cantieri di Carità e Giustizia lanciata prima dell'estate dal vescovo Claudio. 3 tappe, una che guarda al passato per recuperare la storia di tradizione, carità e solidarietà che è ultrasecolare a Padova, il presente per mappare ciò che esiste ed è la fase ancora in corso, le realtà impegnate nel sostegno e nella cura dei diversi disagi e il senso comunitario del prendersi cura dei diversi contesti, e poi lo sguardo al futuro con l'obiettivo di sviluppare delle pratiche condivise a corrispettivo sociale, così è stata definita, nell'intento di trovare forme di lotta alla povertà da realizzare con i poveri stessi che ne sono protagonisti. Carità e giustizia. Trovate ulteriori dettagli sul sito caritaspadova.it, ma nelle prossime settimane faremo il punto della situazione. Già da mettere in agenda invece la terza edizione delle 10.000 ore di solidarietà, dal pomeriggio di venerdì 25 novembre al pomeriggio di domenica 27 di novembre. La sfida è quella di realizzare assieme un progetto concreto a carattere sociale, ambientale o di aiuto alla comunità. Iniziativa questa rivolta ai giovani dai 14 anni in su, in gruppi da 5 a 10 componenti. Il progetto, lo ricordiamo, è promosso dalla Caritas di Padova, dal CSV, Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova, dal Comune, con il supporto e il patrocinio di diverse realtà, quelle che poi magari concretamente ospiteranno le iniziative appunto di solidarietà. 10.000 ore è il conteggio complessivo, diciamo, è il del marchio, ma l'obiettivo è di arrivare a 20.000 ore complessive nei 2 giorni del progetto. Ci si può iscrivere in gruppo o anche singolarmente, e magari questa è l'occasione per stringere nuove amicizie, instaurare nuovi rapporti impegnandosi in un gruppo. La caratteristica, come già negli anni scorsi, è che i giovani non sapranno fino al momento dell'inizio delle attività a cosa saranno destinati. Il termine per le iscrizioni è il 28 di ottobre, i riferimenti anche con il modulo per l'iscrizione sul sito 10.000ore.it, 10.000 è scritto in cifre. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.